Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Direttore, con riferimento alla prossima nomina del responsabile della Banca Centrale Europea, molti editorialisti hanno scritto che è necessario fare squadra per portare avanti una candidatura italiana, quella di Mario Draghi, per la precisione. L'ultima volta che si è fatto squadra con successo è stato per l'Expo 2015. Milano ha vinto ai punti su Smirne, ma da quel momento sono incominciati i problemi, che proseguono tuttora, dimostrando che il progetto ha il fiato corto, ampliato dalla crisi economica mondiale. L'autorità della Banca d'Italia, che credevamo fosse pubblica, ma invece è privata, ha subito un grave colpo con Antonio Fazio. Per il suo operato sono in corso dei processi. Non dimentico la bassezza delle discussioni del 2005, quando si discuteva in Parlamento della durata dell'incarico del governatore della Banca d'Italia. Il suo sostituto, Mario Draghi, proviene da una società finanziaria operante a Londra, implicata nella grave crisi finanziaria mondiale. Più volte ha espresso divergenti opinioni col ministro dell'Economia, Tremonti, rispondendo alla domanda di un giornalista che chiedeva se un banchiere italiano potesse mai arrivare alla guida della BCE. L'avvocato Agnelli, con la solita arguzia, disse «Non credo proprio». Difficile quindi che nelle condizioni di cui sopra si possa fare squadra. O no? Agostino. No, caro Agostino, non sono d'accordo con lei e probabilmente non lo sarebbe nemmeno l'avvocato Agnelli, la cui dichiarazione da lei citata è stata fatta in anni ormai passati e completamente diversi da quelli attuali. Il momento e l'occasione sono tali da richiedere un vero e sincero impegno comune. E allora in questa prospettiva è necessario guardare a ciò che unisce ai valori positivi, piuttosto che a ciò che può dividere o costituire un problema. Lei accenna come un ostacolo al passato di Draghi in una grande banca d'affari. Sinceramente mi sembra che possa e debba essere considerata più un'esperienza positiva, un valore aggiunto, più che un limite o addirittura una responsabilità per la crisi finanziaria degli ultimi mesi. Lei cita il caso dell'Expo. Ci sono tutte le condizioni perché continua a essere un caso positivo fino alla conclusione. Sarebbe allora un grande passo in avanti se l'Italia riuscisse a recuperare una forte unità di intenti e una significativa capacità di pensare agli interessi generali più che alle ambizioni personali. Fare squadra resta quindi un metodo e un obiettivo, nella convinzione che in questo modo non si fa l'interesse di qualcuno, ma si difendono gli interessi di tutti. Volevo esprimere la mia indignazione per le scorrette interpretazioni date a quanto detto dal dottor Bertolaso. Bertolaso ha spiegato che senza dubbio da parte americana è stato fatto tanto, molto, ma gli americani sono abituati ad aiuti e interventi militari che sono diversi dagli aiuti civili. Pertanto sorgono tende in ordine sparso e questo comporta spreco di tempo nel cercare di individuare dove sono finite le persone e di che cosa hanno bisogno. Se ci fosse una tendopoli, come è stato fatto all'Aquila, in un unico posto per ricoverare le persone, con una tenda per servizio ristorante ed un'altra per i servizi sanitari, gli aiuti sarebbero più mirati e di conseguenza più veloci. Però questo nessuno l'ha detto né scritto, si è preferito travisare le affermazioni. È una vergogna. Per di più, è stato accusato di aspirare a prendere il comando della situazione per ciò che riguarda gli aiuti. La giornalista che lo intervistava glielo ha chiesto in modo esplicito. E il dottor Bertolaso ha risposto altrettanto esplicitamente che non ci pensava nemmeno. Ed è vergognoso che pure Palazzo Chigi abbia detto «Ma chi pensa di essere? Anna Maria». Qualche sera fa parlavo con mio fratello che lavora a Santo Domingo per una ONG che si occupa di diritto del lavoro delle minoranze, ovvero degli haitiani. In questi giorni si è attivato come volontario della Caritas di Santiago de los Caballeros, la città in cui vive, per portare medicinali in un ospedale di Port-au-Prince e in un altro del nord, a Cabo Haitiano. Quello che lui mi diceva era simile a quello che dice Bertolaso. Gli Stati Uniti portano grandi navi di aiuti, poi salutano e vanno via. Forse un po' più di organizzazione non farebbe male. Roberta. Il capo della Protezione Civile ha sì criticato lo scarico delle cassette. Ha però proseguito dicendo che il posto di Clinton avrebbe dovuto essere alla direzione del coordinamento per gli aiuti, a ricoprire quindi quel ruolo che lo stesso Bertolaso ha nel nostro paese. Anne. Ferdinando Casini ha parlato di imperante populismo a proposito della vittoria di Nichi Vendola nelle primarie del PD in Puglia. Sul consenso popolare si è basata questa scelta e dello stesso consenso pure Casini ha goduto per sedere dove siede. Questo vuol dire che Casini, come tanti altri, parla di popolo sovrano da rispettare ed onorare prima delle elezioni o nel caso in cui il popolo esprima cose che lui ritiene sensate. Parla invece di populismo quando ne vuol dare un'immagine denigratoria perché non ubbidisce ai suoi piani. Ma allora questi piani cosa hanno a che fare con il volere della maggioranza del popolo e quanto invece attengono ai calcoli della politica? Questi politici, che ci teniamo da decenni, stanno davvero lavorando per la collettività? O lo fanno invece per perpetuare la loro carica? In realtà, poi, molti di loro vengono eletti perché hanno alle spalle comitati d'affare, gruppi di potere o gruppi di cittadini che pensano di avere un tornaconto. Lettera firmata. Sono una laureata in filosofia. Quando 12 anni fa mi hanno offerto una sostituzione di maternità per fare l'assistente in un ufficio commerciale, ho accettato il lavoro. E poi, di lavoro in lavoro, adesso faccio la pubblicista e dirigo una piccola rivista di provincia dedicata alla politica locale. All'occasione faccio anche l'addetto stampa e nel mio piccolo sono una professionista apprezzata e sono contenta. Ma non ci sono arrivata perché lo Stato mi ha dato qualcosa, ma perché, più banalmente, ho lavorato, mi sono mantenuta e ho dimostrato di saper lavorare. Ma di persone che rifiutavano lavori o si ritenevano superiori a quanto veniva richiesto sul posto di lavoro solo perché avevano una laurea, ne ho viste tante. Ma ragazzi, volete rendervi conto che di pensatori, geni e grandi ricercatori ce ne sono pochi? Che le grandi menti sono poche per definizione? Altrimenti sarebbero la media e non sarebbero grandi? Tutti noi, gli altri, dovremmo provare a fare quanto ci piace nel mondo del lavoro, ma prendendo atto della realtà. E la realtà è che un laureato in lettere o in filosofia o in storia, quando entra in ufficio, sa fare meno di una diplomata segretaria d'azienda. E che sta all'elasticità mentale di cui tanti si vantano, capire che si inizia così. E che poi le stellette si guadagnano sul campo, aggiungendo al semplice saper fare il valore aggiunto del saper pensare. Insomma, facciamo un bel bagno di umiltà e cominciamo a tirarci su le maniche, perché se si vuole evitare la gavetta, allora è meglio rassegnarsi alla disoccupazione. Un po' di orgoglio, accidenti, oppure gli altri devono sempre garantirci tutto. Un esempio? Gli insegnanti. Chi decide di fare l'insegnante si mette in graduatoria e se non riesce ad avere il posto va in piazza perché è un precario e vuole un posto. Sta scritto da qualche parte che chi decide di fare l'insegnante debba farlo? Io volevo fare la giornalista, non potevo permettermi di farmi mantenere mentre ci provavo, ho fatto altro e un passo alla volta ci sono arrivata. Ma nel frattempo ho fatto cataloghi di fiere, recensioni di siti web, gestito portali aziendali, ma anche raccolto la pubblicità per riviste di impiantistica civile e quant'altro. Simona. I vari concorsi RAI, tra i quali emerge il pacco premio, mostrano ai telespettatori come partecipando a tali concorsi per una mezz'ora o giù di lì, si possano portare a casa premi di valore spudoratamente esagerato se confrontati con gli attuali stipendi e salari percepiti con fatica e impegno. Qualcuno infatti ha addirittura vinto 500.000 euro che su per giù rappresentano 500 stipendi mensili da 1.000 euro che molti precari ambirebbero assai di guadagnare. Ma anche vincendo 50 o 100.000 euro, si tratta comunque di cifre esagerate, considerate la banale stupidità del gioco. A mio parere la RAI dovrebbe mettere un tetto al valore dei premi, portandoli ad esempio a 10.000 euro, che per un giochino da fare senza fatica alcuna sono già un bel premio per chiunque. A tale spreco di soldi pubblici si aggiunge il continuo aumento del canone per coprire i colossali buchi di bilancio di un tale scriteriato carrozzone senza che i governanti intervengano a sanare una così vergognosa situazione. Infine, come ciliegina sulla torta, c'è il deleterio esempio che viene passato alle giovani generazioni e cioè, se vuoi fare soldi senza fatica, partecipa a qualche concorso televisivo, così forse risolvi i tuoi problemi. A quando un po' di serietà? Lettera firmata. Caro direttore, la realtà è che a fine marzo, quando dovremo andare a votare per le regionali, ci sarà una novità, il voto fluido. A me, come elettrice, sinceramente piacerebbe votare per la parte politica a cui ho scelto di appartenere e non gradirei dare il mio voto anche a chi, seppur localmente, verrebbe premiato per appoggiare una certa coalizione, contrastando la stessa e remando contro in un'altra regione. Questa fluidità di alleanza è davvero senza pudore e conferma come il centro, in effetti, non rappresenti quasi nulla di per sé, ma acquisisca valore come ago della bilancia nell'accoppiamento con le forze di destra o di sinistra a seconda dei casi. Ma che pasticcio si crea. Mi pare che oltre a quella degli elettori, la confusione sia ancora più forte fra i diretti interessati. E di fronte a candidati che vengono screditati ancor prima di essere eletti, l'unica certezza che emerge è solo il lato più brutto della politica attuale che invece di parlare di programmi, di obiettivi utili alle regioni e di conseguenza al paese tutto, fa trasparire come l'unico traguardo vero sia il potere della poltrona. L'interesse di quanto convenga vincere per ottenere vantaggi e carriera. Preferirei che la mia parte politica arrivasse alla vittoria senza compromessi troppo bassi e preferirei meno regioni nel conto finale e più rispetto da chi dovrebbe lavorare per i cittadini. Diversamente, fine marzo sarà un po' presto per andare al mare, ma credo che la stagione offrirà ancora molto in montagna. Giulia. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.